www.redigio.it e la storia continua. Il Museo Civico di Legnano. Nascita e sviluppo. Fu inaugurato nel 1928 e intitolato poi al suo fondatore, l'archeologo Guido Sutermeister. Il 28 ottobre 1928 veniva inaugurato il Museo Civico di Legnano, la cui origine ha avuto una particolare genesi. È stato infatti ricostruito con gli elementi e i materiali di una storica residenza del XV secolo, una casa magna in contrada di mezzo a Legnanello vicino alla chiesa, così come si legge sull'atto del notaio, che è una proprietà acquistata da Oldrado Lampugnani assieme a fratello Mafiolo. Quando si rese necessaria la demolizione di questa dimora patrizia dei Lampugnani, fu deciso di ricostruirla fedelmente in corso Garibaldi, con ogni particolare architettonico e pittorico dell'antico maniero, compresa la loggetta del primo piano e il porticato con le stesse colonne. Nasceva così il Museo Civico. Fu subito arricchito con materiale artistico e archeologico che l'ingegner Guido Sutermeister aveva raccolto con passione e competenza. Le collezioni si sono poi arricchite con donazioni e con un consistente nucleo di materiali approdati al museo da scavi della Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Nel portico lapidario sono visibili reperti romani, barbarici e medievali, oltre ad alcuni frontali di camini con gli stemmi araldici di antiche famiglie legnanese. Nelle sale interne è esposto del materiale proveniente da numerosi scavi e ritrovamenti, che testimoniano l'esistenza di una civiltà della Valle Olona, ma questo sin dall'età del bronzo. Per diffondere e favorire l'opera del museo, fu costruita, sempre nel 1928, la Società Arte e Storia di Legnano. Promotore dell'iniziativa era lo stesso Sutermeister, che fu nominato anche direttore del museo, e che continuò ad aggiungere nuovi reperti archeologici di epoca romana e preromana nelle 5 sale di esposizione. Alla morte del fondatore archeologo, avvenuta nel 1964, il museo fu a lui intitolato. Nel corso degli anni, il complesso museale fu ristrutturato e restaurato e abbellito con il completamento delle decorazioni parietali in graffito in tutte le pareti esterne durante la giunta Turi negli anni 90. La collezione sala. Nel 1997, ai numerosi reperti del museo, si era aggiunta la preziosa collezione sala, composta da 57 pezzi databili fra l'VIII secolo a.C. e l'epoca imperiale romana, acquistata dalla famiglia legnanese per evitare che fosse ceduta a privati. L'associazione iniziò allo scopo lunghe trattative con gli eredi di Emilio Sala di Castellanza, riuscendo a entrare in possesso per poi cedere incomodato al comune da esporre al museo in una saletta del primo piano, ricreando idealmente la stanza prediletta dell'abitazione privata di un collezionista che lì raccoglie ed espone i suoi tesori. Scriveva infatti l'assessore alla cultura Renato Besana nella presentazione del volume su questa preziosa collezione. Se la vicenda è a lieto fine, lo si deve a un sodalizio privato, la famiglia Legnanese, che ha messo a disposizione del pubblico quello che il pubblico voleva lasciare al privato. Ringraziarla e ringraziare il suo presidente Luigi Cheroni appare doveroso, esprimendo la gratitudine dell'intera cittadinanza. La collezione è composta da manufatti con una netta prevalenza di vasellame, assegnabile al V e al IV secolo avanti Cristo. Uno tra i pezzi più pregiati e tutti in ottimo stato di conservazione è un grande vaso di argilla di probabile uso funerario, che è assegnabile al III secolo avanti Cristo e prodotto nella località di Centuripe, antico centro della Sicilia, in provincia di Enna, famoso per le sue botteghe di coroplasti e ceramisti. La collezione comprende, in particolare, anche una statuetta femminile realizzata. La collezione comprende, in particolare, anche una statuetta femminile realizzata in terracotta con tunica, mantello e diadema in testa. Di particolare eleganza era nel museo il Salone d'Onore, che accoglieva fino a poco tempo fa tre grandi tele del pittore ferrarese Gaetano Previati, vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. I dipinti rappresentano i tre momenti fondamentali della battaglia di Legnano, 29 maggio del 1176, la preghiera, 1916-17, la battaglia, 1915-16, e la vittoria, 1917, rimasta poi incompiuta. Le tre opere che sono state trasferite a Castello Visconteo sono conosciute come il trittico della battaglia di Legnano e appartengono allo stile maturo dei Previati. Attualmente il salone sarà utilizzato per percorsi espositivi di materiali finora tenuti nei depositi per mancanza di spazio.